Euroreportage. Belgrado, dove le imprese italiane diventano internazionali, di Claudia Vanni. La maggior parte degli investimenti stranieri proviene dall'Italia. Seguono la Germania e l'Austria. L'asse Roma-Belgrado ha radici decennali, spiega Stefan Nikcevic, ministro del commercio serbo. A tenere viva l'attrazione negli anni? Manodopera a basso costo, tassazione al 15%, terreni fertili e l'assenza di dazi per l'esportazione dalla Serbia verso la Russia, ad esempio, grazie all'accordo di libero scambio tra i due paesi. L'ex Repubblica di Tito ora procede spedita verso l'integrazione nell'Unione Europea, un ingresso che potrebbe cambiare le carte in tavola nella partita degli investimenti stranieri, compresi quelli provenienti dall'Italia, come spiega Biagio Carrano, consulente di internazionalizzazione di impresa. Sicuramente con l'ingresso in Unione Europea della Serbia scompariranno una serie di vantaggi legati a degli accordi di libero scambio che oggi la Serbia soprattutto vanta verso i paesi ex CSI, cioè sostanzialmente Bielorussia, Russia e Kazakistan. Questo è un dato di fatto che è assolutamente non smentibile. Ma il ministro del commercio serbo Nikcevic si adopera per illustrare nuovi benefici. Credo che avremo comunque altri vantaggi per questi investitori. Vorrei dire buone capacità professionali delle persone, buone infrastrutture, procedure molto chiare e buone leggi calzanti coi loro affari. Condizioni diverse con potenziali opportunità da non sottovalutare, sottolinea Giuseppe Manzo, ambasciatore italiano a Belgrado. Cambierà il privilegio, ma si consoliderà una posizione, perché quando uno accede a un mercato, poi chiaro, cambiano le condizioni in termini di prezzi, perché se cadono l'area di libero scambio col passare del tempo, quando la Serbia poi aderirà all'Unione Europea, al tempo stesso è vero che intanto l'Italia, l'azienda italiana si è posizionata su quel mercato, poi dovrà competere con tutte le altre che si posizionano su quel mercato, però c'è su quel mercato. Quindi questa è chiaramente, muteranno le condizioni, però muteranno per tutti gli attori. Esserci fa la differenza, non esserci significa non esserci. Esperto di internazionalizzazione di impresa Carrano svela le potenzialità di questo approccio. Questo è un paese che a un'ora e mezza di volo da Roma e da Milano consente a tante imprese italiane di poter essere interpretato come un laboratorio per le proprie strategie di internazionalizzazione, la possibilità per imprese piccole e medie italiane di affrontare un processo di internazionalizzazione a costi sostenibili, di interfacciarsi con partner non solamente europei ma da tutto il mondo, basti pensare per esempio alla presenza di investitori cinesi, alla presenza di investitori degli Emirati Arabi. Questo può essere una visione intelligente, moderna, di internazionalizzarsi non come fuga dall'Italia dalle complessità fiscali, amministrative e burocratiche che attraversano in questo momento il nostro paese. Una preparazione utile anche in vista delle gare di appalto che nei prossimi mesi saranno aperte in Serbia, con l'attivazione dei progetti europei necessari all'integrazione. Non basterà proporsi come il costo del lavoro, ma bisognerà che le piccole e medie imprese italiane, ma anche le grandi imprese, siano capaci di presentare un livello di progettazione, un livello di competenza, e quindi attraverso il confronto con questo mercato e la costruzione di nuovi partnership internazionali potranno acquisire assolutamente delle nuove competenze che miglioreranno la loro competitività a livello globale. Molteplici i settori di investimento delle aziende italiane, come indica l'ambasciatore Manzo. Per molti anni, soprattutto il tema della trasformazione, il tessile, è stato chiaramente, come in tutta questa regione, quello principale. Adesso è quello dell'agricoltura. Rigoni di Asiago, che è un'azienda leader nel settore della produzione delle marmellate organiche, in Europa comincia un progetto di investimento con centinaia e centinaia di ettari di terreno che saranno coltivati a coltivazione biologica. Ferrero a febbraio ha firmato un accordo con il governo serbo per impiantare la coltivazione della nocciola. Al termine di questo processo la Serbia diventerà un esportatore netto. Tra le aziende esportatrici serbe, la prima tra tutte ha sangue italiano. Lo rivela lo stesso ministro del commercio Stefan Nikcevic. Il maggiore esportatore per il 2013, ma anche per il 2014, è Fiat Serbia. Nikcevic ci riporta indietro e analizza il legame commerciale tra Italia e Serbia nella storia recente. Durante il periodo dell'ex Jugoslavia, delle sei repubbliche, se ricordate, quando eravamo insieme alla Croazia, la Slovenia, eccetera, il primo partner era la Germania, il secondo l'Italia. Ora che parliamo soltanto della Serbia, al primo posto c'è ancora la Germania e al secondo l'Italia. Se guardiamo ad est, abbiamo le stesse evidenze. Il primo partner resta la Russia. È ovvio che ci sono dei partner tradizionali, dei mercati tradizionali. Se da un lato quindi la Serbia tiene la mano alla madre russa, dall'altra corteggia con lo sguardo gli stati europei, oltre il confine. Con Mosca certo c'è un legame culturale, ma quando c'è da riempire le casse non si guarda il passaporto. Gli scambi complessivamente hanno una quota europea del 63,2%. Seguono con l'11,9% i paesi del CEFTA, l'accordo commerciale con il centro Europa. Poi la Russia, con il 9,5%. È lo stesso ministro Nikcevic che sottolinea il disimpegno economico russo in Serbia. Ci sono molte informazioni sbagliate, false prospettive riguardo il nostro mercato con la Russia. Gli scambi hanno mostrato un calo del 29,3% rispetto allo stesso periodo del 2013. Una diminuzione sospetta cascando proprio nei mesi in cui Putin viene investito dalle sanzioni europee per spingerlo al ritiro delle truppe dall'Ucraina. Un colpo che Mosca potrebbe aver scaricato sui paesi filoeuropei, un monito a non seguire il percorso sanzionatorio tracciato dall'UE onde evitare controattacchi commerciali. Il ministro Nikcevic smentisce la ricostruzione ma ammette che se la Commissione europea imponesse alla Serbia di adottare sanzioni contro la Russia, la bilancia commerciale di Belgrado potrebbe risentirne. Se guardiamo alle statistiche, le conseguenze potrebbero essere molto molto dannose per l'economia serba. Decisamente non sarebbe così facile gestire nuovi partner per collocare i beni esportati in Russia. L'assistente che gli siede di fianco aggiunge: e anche per la dipendenza energetica. Dal fronte europeo l'ambasciatore UE Michael Davenport assicura che l'Unione riconosce la natura storica di questi legami. Serbia does have traditional ties with Russia. La Serbia ha davvero legami che fanno parte della tradizione con la Russia, di tipo culturale e storico, legami linguistici e religiosi. In termini economici, la Serbia ha accordi di libero scambio con la Russia e ci sono investimenti russi in Serbia, lontani però dalla quota dei paesi dell'Unione Europea. Sono comunque significativi, soprattutto in campo energetico. L'Unione Europea riconosce questi rapporti. La Serbia non è l'unico Stato che ha legami speciali con paesi terzi. E non c'è ragione per cui la Serbia non dovrebbe continuare a sviluppare e a far crescere i collegamenti russi. Poi però il capo della delegazione europea a Belgrado aggiunge: c'è l'aspettativa che gradualmente e progressivamente la Serbia si allinei alla politica estera europea come paese candidato per l'ingresso e la negoziazione. Il rapporto con la Russia è quindi ancora tutto da risolvere a Belgrado come a Bruxelles. Intanto la Serbia procede spedita. Ora iniziano fattivamente le riforme, soprattutto giuridiche. Occorre dimostrare trasparenza ed efficienza contro la corruzione che si attesta a livelli superiori di Macedonia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina, per fare qualche esempio. In ambito economico i cambiamenti repentini provocano sussulti tra la popolazione, come spiega l'ambasciatore italiano a Belgrado Giuseppe Manzo. I tagli ai salari, alle pensioni che sono introdotti in questi mesi con le riforme del lavoro, con le riforme della privatizzazione, riforme che vengono introdotte con l'obiettivo di risanare l'economia e di dare ai serbi un'opportunità per il futuro. Non è una questione di farlo per l'Europa, Noi ovviamente come Europa glielo chiediamo perché si adeguino gli standard a quelli europei. Non è più una questione di principio, stai con l'Europa o stai con il panslavismo, con la Russia. È una questione di necessità che è stata ben compresa. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.